Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. 24esima puntata. Soltanto una piccola crepa nella corazza di austerità che aveva gravato così pesantemente sulla nonna fin da quando io avevo memoria, una segreta inclinazione per i gioielli. Non c'era stato niente di segreto in questa sua debolezza quando era ragazza, era stata una passione. È stata una buona cosa che avessi qualcosa su cui contare, diceva con calma. Come pensate che me la sia cavata tutti quegli anni che ho vissuto nei bassi fondi quando tutti voi vi eravate dimenticati di me? Come pensate che sarei sopravvissuta se non avessi avuto i miei gioielli a cui ricorrere? Gli indiscreti parenti erano ridotti al silenzio, ma più tardi, fuori dalla portata delle sue orecchie, mi spiegavano ridendo che il suo amore per i gioielli era uno scherzo di famiglia quando era ragazza. La si incontrava sovente al negozio dell'orefice all'angolo di Jindabahar Lane mentre sbirciava tra le sbarre fissando gli orafi al lavoro all'interno. Provava un così grande piacere a entusiasmarsi davanti ai cofanetti di gioielli delle parenti sposate che queste tenevano le chiavi a portata di mano in fondo ai loro sari ogni volta che andava a trovarle. Ai matrimoni sapeva che le vecchie padrone di casa avrebbero chiesto il suo parere sui gioielli donati alla sposa, come se fosse la nonna di un orefice piuttosto che una ragazzina tutta pepe. Naturalmente, dopo che era rimasta vedova, aveva smesso di portare gioielli in pubblico e più tardi, quando mio padre sposò mia madre, aveva dato a lei quelli che non aveva ancora venduto. Le piaceva vedere mia madre con i braccialetti e le collane che le aveva regalato. Mia madre, però, non teneva particolarmente ai gioielli e non li indossava spesso, neppure per i matrimoni. Il che non mancava mai di irritare mia nonna. «Così stai andando a un matrimonio a collo nudo», diceva con asprezza. «Immagino che tu voglia dare a tutti l'impressione che qui stai morendo di fame». C'era però un gioiello da cui la nonna non si separava mai. Era una lunga, sottile catena d'oro con un minuscolo pendente di rubino. Era a tal punto parte di lei che non ci faceva neppure più caso. Non se la toglieva mai, almeno per quanto mi ricordo. Ma nello stesso tempo si vergognava molto di portarla e faceva di tutto per nasconderla sotto la camicetta, allargandola intorno alle spalle con il ciondolo infilato tanto in profondità che nessuno lo poteva vedere. Credeva che i nostri parenti avrebbero spettegolato se l'avessero vista. «So che cosa direbbero», brontolava. «Direbbero, guardatela, è vedova da anni e porta ancora gioielli come se fosse una ragazza. Sono sicura che in cuor suo lo pensa perfino tuo padre». Naturalmente non trascurava di informare mio padre delle sue convinzioni. Lui, per parte sua, cercava di persuaderla che non faceva assolutamente caso alla sua collana, che davvero sarebbe stato felice se avesse portato più gioielli. E probabilmente, per un verso, lo sarebbe stato. Forse gli avrebbe realmente fatto piacere vederla tutta agghindata come le madri dei suoi moderni colleghi che frequentavano i club insieme ai figli portando proprio il giusto tocco d'oro intorno al collo e ai polsi, con pretese di eleganza nel loro disprezzo per le antiche proibizioni, tristemente démodé. La nonna non credeva a mio padre quando le diceva di non badarci e probabilmente aveva ragione. Forse mio padre, a dispetto delle sue dichiarazioni, faceva davvero caso al fatto che lei portasse anche solo quella sottile catena d'oro. Forse in fondo al cuore lo riteneva effettivamente un segno di mancanza di rispetto verso il padre defunto. Ma mia nonna non aveva nessuna intenzione di mancare di rispetto alla sua memoria. Al contrario, «La porto perché me l'ha data lui, sai?» mi spiegò una volta. «Tuo nonno è stata la prima cosa che mi ha regalato a Rangoon subito dopo esserci sposati. hanno dei meravigliosi rubini là. Non potrei sopportare di darla via adesso. A lui non farebbe piacere. Non me la sono mai tolta in questi 32 anni, nemmeno quando sono stata operata alla cistifellea. Volevano che me la togliessi, invece io l'ho fatta sterilizzare. Non intendevo farmi operare senza. Ora è diventata parte di me. Talvolta, mentre le massaggiavo il collo o quando si addormentava sulla sedia, avrei voluto tirar fuori la catena dalla camicetta e farla scorrere tra le dita. Era così graffiata e opaca che non sembrava neppure più d'oro. Aveva esattamente il suo stesso odore di sapone, amido e cipria, ma più accentuato, metallico. Era davvero parte di lei. Poi, un giorno dell'anno 1965, più di un anno e mezzo dopo il suo viaggio a Dacca, la diede via. Un pomeriggio tornai da scuola e trovai la radio che suonava a tutto volume nella stanza di mia nonna al piano di sopra. Suonava così forte che potevo sentirla dal marciapiede dove mi aveva lasciato lo scuolabus. Corsi dentro e trovai mia madre distesa sul letto, con le dita premute contro le tempie e un panno umido sugli occhi. «Che cosa sta succedendo?» le domandai. «Dio solo lo sa», disse. «Stamattina tua nonna è uscita di casa alle 10 ed è tornata un paio d'ore dopo. Non ha voluto niente da mangiare, gliel'ho domandato io stessa. Le ho detto ti ammalerai se non mangi, ma credi che mi abbia dato retta? Se n'è andata di sopra, ha acceso la radio e va avanti così da allora. Quando trasmettono i notiziari, alza il volume ancora di più. È già successo 3 volte. «Dove è andata?» dissi. Ero molto stupito perché a quell'epoca mia nonna non lasciava quasi mai la sua stanza. Potevamo contare sulle dita di una mano il numero di volte in cui era uscita di casa quell'anno. Mia madre scrollò ancora le spalle e fece una smorfia. «Chi lo sa dove è andata? Che importanza ha? Non sei andata su a chiederglielo?» dissi, sapendo che la risposta sarebbe stata negativa, perché a quel tempo ero io la sola persona di casa a cui la nonna permettesse di entrare in camera sua. «Perché non vai tu a dirle di abbassarla?» disse mia madre. «Forse a te darà retta. È inutile che lo faccia io». Corsi di sopra e spalancai la porta della camera della nonna. La vedevo solo di schiena. Stava accucciata sulla radio, abbracciandola stretta, come se stesse aspettando che il rumore si aprisse un varco dentro di lei. Capii immediatamente, appena la vidi. «Tamma!» gridai. «Cos'è successo alla tua catena? Che cosa ne hai fatto?» Allora si voltò a guardarmi. I capelli le ricadevano sul viso come spaghi bagnati. Gli occhi erano appannati e le erano caduti gli occhiali. Nel vederla in quello stato mi spaventai. Avrei voluto non aver chiuso la porta dietro di me. «L'ho data via», disse. Gli occhi vitrei, non a fuoco, si posavano a caso non su di me, ma su un punto del muro sopra la mia testa. «Perché, Tamma, perché hai fatto questo?» «L'ho data via», urlò. «L'ho data al fondo per la guerra. Dovevano, lo capisci, per il vostro bene, per la vostra libertà. Dobbiamo ucciderli prima che uccidano noi. Dobbiamo farli fuori». Incominciò a battere sulla radio con entrambe le mani. Arretrai armeggiando dietro la schiena con il pomello della porta. «Questa è la sola possibilità», urlò. La sua voce si alzava fino a stridere. «La sola possibilità! Finalmente li stiamo combattendo con mezzi adeguati, carri armati, cannoni e bombe!» Poi il vetro della radio andò in pezzi colpito dal suo pugno. Frammenti di vetro tintinnarono sul pavimento. La radio crepitò e tacque. Brandelli di pelle restarono sul bordo frastagliato del vetro. Scrollò la mano sanguinante, se la mise in grembo e la fissò assorta, mentre il sangue gocciolava lungo i lati del sari, tingendolo di un cremisi tenue come quello del batik. «Devo andare all'ospedale. disse a se stessa, ora perfettamente calma. Non devo perdere tutto questo sangue. Posso donarlo al fondo per la guerra. Fu allora che urlai. Un urlo che veniva dalla profondità delle viscere, con la testa tra le mani e gli occhi chiusi. Urlai finché accorsero mia madre e i domestici e mi portarono nella mia stanza, e persino dopo continuai a urlare e non volevo aprire gli occhi. Stavo ancora piagnucolando quando mia madre entrò in camera mia con il medico. Mi diede un colpetto sulla testa e disse: «Il dottore sta per farti un'iniezione, così potrai riposare un po'». Allontanai la sua mano e dissi: «Cos'è successo alla nonna?» «Non preoccuparti per lei», disse mia madre, «sta bene. Tuo padre è venuto con un altro medico per portarla in un bell'ospedale dove potrà riposarsi qualche giorno. Medici e infermieri avranno cura di lei. Starà molto tranquilla e felice. Non preoccuparti». «Perché l'ha fatto?» dissi. «Che cosa voleva?» Mia madre mi toccò ansiosamente la fronte mentre il medico controllava la siringa. «Non preoccuparti per la nonna», disse. «È questa guerra col Pakistan. È stata tutto il giorno ad ascoltare la radio e non è una buona cosa per lei. Non è più la stessa, lo sai, da quando hanno ucciso Tridib laggiù». «Ucciso Tridib?» dissi mentre l'ago penetrava nel mio braccio. «Chi ha ucciso Tridib? Mi avete detto che era stato un incidente». «Sì, sì», disse precipitosamente mia madre. «È questo che intendevo. Ora dormi, non ti preoccupare». «Perché hai detto ucciso?» dissi. «Che cosa volevi dire?» Ma il calore saporifero del tranquillante aveva già cominciato a riscaldare il mio corpo e in un attimo chiusi gli occhi e dimenticai. Quella la prima volta in cui ebbi il vago sospetto che la morte di Tridib fosse la conseguenza di qualcosa di diverso da un incidente. Quando il suo corpo fu portato indietro da Dhaka, ero stato mandato a Durgapur dal fratello di mia madre. Fu cremato mentre ero via. Quello stesso giorno May partì per Londra e immediatamente dopo Maya Devi e la sua famiglia ritornarono a Dhaka. Non sapevo nulla di quanto era accaduto, nulla, neppure che Tridib fosse morto. I miei genitori vennero a prendermi a Durgapur una settimana dopo e sulla strada per Calcutta mio padre fermò la macchina davanti al grande tempio di Ma Kali Dakshineshwar e fui sconcertato perché sapevo che mio padre odiava farsi largo tra la folla del tempio. «Perché ci siamo fermati?» domandai. «Non preoccuparti», disse, e immediatamente compresi che si trattava di un'occasione speciale. Chiudemmo la macchina ed entrammo, seguiti da una fastidiosa frotta di monaci. Mio padre individuò il religioso della nostra famiglia, attraversò di corsa il grande cortile pavimentato e ci guidò tra la folla fino al tempio interno. Mentre giravamo intorno al tempio interno con le offerte nella coppa delle mani, mio padre mi posò una mano sulla spalla. «Ascolta, c'è qualcosa che devo dirti. È successa una cosa molto triste mentre eri a Durgapur. Tridib è morto in un incidente a Dhaka». Si fermò e si curvò per guardarmi in faccia. Penso che si aspettasse che scoppiassi in lacrime, ma per me «morto» era soltanto una parola vagamente associata ai film e ai fumetti. Questo era tutto. Non avevo modo di collegare quella parola a una presenza reale come quella di Tridib. Non sentivo niente, né spavento né dolore. Non mi rendevo conto che non l'avrei rivisto mai più. La mia mente non era abbastanza grande per contenere un'assenza così completa. Che tipo di incidente? Dissi. La loro macchina è stata fermata da alcuni teppisti, disse mio padre. Furfanti comuni, come ce ne sono dovunque, ma la macchina ha sbandato bruscamente e ha sbattuto contro qualcos'altro. Questo è tutto. Nessun altro si è fatto male. Assentii col capo e andai avanti, le offerte ancora al sicuro nella mano. No, aspetta, disse mio padre trattenendomi. Devi promettermi qualcosa. Ricorda che hai in mano i fiori di Macali, quindi non puoi ritirare la parola data. Promettimi che non ne parlerai mai in nessun posto, mai, non a scuola, non a Montu, non ai tuoi amici al parco. Sai che Meshomoshai, il padre di Tridib, è un uomo molto importante del governo. Non vuole che la gente ne senta parlare, deve essere tenuto segreto. Perciò non devi farne parola. Soprattutto non devi fare nessuna domanda a tua nonna su quanto è successo. È già molto sconvolta e sarebbe ancora peggio se la facessi parlare di questo. Stai crescendo, ora sei un ragazzo grande e devi capire che ci sono cose di cui gli adulti non parlano. Assentì, ma non gli diedi veramente la mia parola, non perché pensassi di non poterla mantenere, soltanto perché non capivo perché stesse facendo tutto quel clamore. Ai miei amici non sarebbe interessato un incidente avvenuto in un luogo remoto. Non c'era niente di cui parlare. Un incidente era un modo così insignificante di morire. La prima volta che Roby mi parlò della morte di Tridib fu a Londra, alla fine di quella bella giornata di settembre in cui andammo con Ayla a Lymington Road a far visita a Mrs. Price. Ayla aveva promesso di portare me e Roby a cena nel suo ristorante indiano preferito, un posticino bangladeshi chiamato il Maharaja a Clapham, dopo essere state a trovare Mrs. Price. Fece del suo meglio per convincere Nick a venire con noi quando ci riaccompagnò a piedi alla stazione della metropolitana di West Hampstead, ma Nick rifiutò garbatamente. Aveva un impegno, sarebbe stato per la prossima volta. Alla stazione di West Hampstead ci fece un cenno di saluto. Ayla era così delusa che non disse una parola per tutta la strada fino a Clapham Common. Il ristorante era a pochi minuti dalla stazione della metropolitana. Ayla ce lo indicò appena sbucammo dalla scala. Una vetrata di cristallo debolmente illuminata, con pesanti tende di velluto, inconeata tra una dozzina di altri posti dove mangiare, dalla cucina guyana a quella turca. Quando Roby spalancò la porta, ci trovammo in una stanza rettangolare, divisa in piccoli scomparti, ciascuno con il suo tavolo e le sue sedie. I tavoli erano illuminati da lampade d'ottone con paralumi ornati di nappe e le sedie erano rivestite di un logoro tessuto color porpora. La stanza odorava fortemente di spezie, come se il riscaldamento centrale avesse intriso di odori di cucina la carta da parati e i rivestimenti. Quando entrammo, il ristorante era vuoto. L'uomo dietro il bancone al fondo della stanza ci fece un cenno quando vide Ayla e venne di corsa verso di noi. «Come stai, Reman Shaheb?» disse Ayla mentre gli porgeva il soprabito. «Sto molto bene», disse con un ampio sorriso. Era un uomo basso, di mezza età, con le guance rotonde e i capelli che stavano ingrigendo, vestito con una giacca nera e una cravatta a farfalla bianca. Parlava bengali con un accento nasale del Sylhet e dovevamo ascoltarlo con attenzione per capire, benché ovviamente lui si sforzasse di accordare la sua parlata con le nostre. «Dove sei stata tutto questo tempo?» stava dicendo a Ayla. «Non ti abbiamo vista per così tanto tempo che pensavamo te ne fossi andata da Stockwell». Ayla rise. «Oh no, Reman Shaheb, non me ne andrei senza dirtelo». Reman Shaheb ci condusse a un tavolo, tirò indietro le sedie e ci porse il menù. Roby aprì il suo, gli diede un'occhiata, poi mi guardò di traverso. «Pollo Singapore?» disse sottovoce. «Gamberetti Bombay?» risposi io. Roby sospirò e richiuse bruscamente il menu. «Perché non ordini tu?» disse Ayla, visto che conosci il posto. Ayla ordinò velocemente, senza preoccuparsi di leggere il menu. Quando Rehman Shaheb ebbe preso gli ordini e se ne tornò in cucina, Ayla si chinò verso di noi e sussurrò: «Consideratelo come qualcosa di esotico, tipo surgelati Eskimo, e vi piacerà. Non dovete aspettarvi nulla di familiare». Il cibo che ci venne portato dimostrò che aveva ragione. Ogni cosa aveva un sapore che andava esattamente al di là di confini familiari. Il consueto sapore di spezie era trasformato da dadi, panna e Worcestershire sauce. Ma a suo modo era delizioso e lo mangiammo con gusto mentre Roby ci raccontava le storie dei suoi colleghi dell'Indian Administrative Service, storie di giovanotti scapoli che vivevano in gigantesche dimore coloniali, in distretti lontani e passavano il loro tempo a scrivere poesie surrealiste e a masturbarsi. Dopo che la tavola fu sparecchiata e Ayla ebbe pagato con la sua carta di credito, Rehman Shaheb tornò portando un vassoio con 3 tazze di caffè. «Questo lo offriamo noi», disse, «con i complimenti della casa, sapete, è una tradizione qui». «Ah, Rehman Shaheb», esclamò Ayla, «perché hai fatto tutto questo? Non avresti dovuto. Adesso però ti siedi un momento qui con noi». «Sì, siediti un momento con noi», insistetti. «Per me l'esperienza di ascoltare nelle strade di Londra i dialetti bengalesi che a Calcutta non avevo mai sentito era un fatto colmo di ironia inesplorata». «D'accordo», disse Rehman Shaheb e avvicinò una sedia al nostro tavolo. Ci fu un momento di silenzio imbarazzato. Infine Ayla disse: «Lo sai, Rehman Shaheb, mio zio Roby ha vissuto nel tuo paese quando era ragazzo, a Dhaka». «Davvero», disse Rehman Shaheb, «anch'io ci ho vissuto per un po'. Tu quando eri là?» «Molto tempo fa», disse Roby, «dal 1962 al 1964. «Io me ne sono andato prima», disse Rehman Shaheb, «mi sono imbarcato». «Sei mai tornato laggiù dopo che il Bangladesh è diventato indipendente?» Roby scosse la testa. «Ci devi andare», disse Rehman Shaheb. «È del tutto cambiato adesso, è così moderno, non puoi immaginartelo. Ma dimmi, in quale zona della città vivevi?» «A Dhanmundi», disse Roby. «Ah», disse Rehman Shaheb, «quella era la zona dei ricchi e degli stranieri. Ma sei mai andato nella città vecchia? È là che avresti dovuto andare. I dolci che si potevano trovare laggiù, non c'è l'eguale in tutto il mondo, neppure a Calcutta. E la gente, sono così ospitali, ti trascinano dritto nelle loro case». Roby fece un sorriso stentato. Ayla mi lanciò uno sguardo preoccupato e spinse indietro la sedia. «Suppongo che tu non sia mai stato in quella parte della città», disse Rehman Shaheb sorridendo a Roby. «Sì, in realtà ci sono stato», disse Roby. «Vedi, mia madre era nata là». «Davvero?» esclamò Rehman Shaheb. «E dove? Ti ricordi dove?» Adesso il sorriso di Roby era una smorfia. «Sì, me ne ricordo. Bisogna andare oltre il Chador Bazar, svoltare e percorrere una lunga strada piena di negozi, poi svoltare ancora a un angolo in cui c'era una specie di campo in cui i ragazzi giocavano a football, poi c'è un negozio di ferramenta e quello è l'angolo del vicolo in cui nacque mia madre, Jindabar Lane, Dhaka». «Ah», disse Rehman Shaheb, «vedo che ti ricordi benissimo, ma dovevi essere molto giovane allora, come fai a ricordartene?» Spinsi indietro la mia sedia e mi alzai in piedi. «Dobbiamo andare», dissi. Ma Roby non mi ascoltava. Si sporgeva verso Rehman Shaheb, aggrappandosi al tavolo con le nocche sbiancate. «Me ne ricordo perché mio fratello fu ucciso là», disse, «durante una sommossa, non lontano dalla casa in cui era nata mia madre. Adesso capisci perché me ne ricordo». Rehman Shaheb balzò in piedi, rosso per l'imbarazzo. Roby si alzò, ci passò davanti e uscì. «Sono così», disse Rehman Shaheb a Ayla. «Non intendevo davvero, io non preoccuparti», disse prontamente Ayla. «Tu non ne hai colpa, lo so che non volevi. È colpa mia, non avrei dovuto tirare fuori questo argomento». Ayla afferrò la giacca, diede a Rehman Shaheb un'ultima pacca sul braccio e gli sussurrò: «È tutto a posto, non preoccuparti». Poi mi seguì fuori dal ristorante. Se n'era già andato. Ci volle un po' prima che riuscissimo a vederlo in lontananza mentre passava sotto un lampione. Percorreva Clapham Road a grandi passi veloci in direzione di Stockwell. Ci mettemmo a correre.